Bene, allora mi dovrete aiutare un casino parlando senza nessun tipo di timidezza, proprio perché di solito io ero sempre con Stefano qui da questa parte della stanza, e invece adesso sono molto gasata di essere nella vostra presenza, ma anche un po' così preoccupata ai volumi e ai mixer. Vi do il benvenuto sapendo e raccontando ai nostri ascoltatori che siete quattro artisti e artiste della installazione del progetto speciale che si chiama Crisol, che fa parte del Festival Gender Bender in atto, ongoing a Bologna, aperto il 9 di settembre, e quindi vogliamo sapere tutto del vostro evento, che cito di e con Roberta Racis, che abbiamo qua presente, Fabio Novembrini, anche a te Fabio, ciao, benvenuto, Jerry Loeng, I don't know how to pronounce your name, but yeah, surname, how do you pronounce it? Leon, ok, Albert Garcia, January Lowe e Albert Garcia, ho detto bene? Garcia, ok, perfect. E January Lowe, che non è qua, con l'artistic advice e il mentoring di Daniel Koch. Quindi abbiamo due rappresentanze dall'Italia, e Albert da Macao e Jerry da Singapore, che quando vorranno potranno parlare in inglese, visto che abbiamo i nostri ascoltatori anche in Virginia, o se no con Roberta e Fabio li tradurremo. Allora, chi vuole cominciare? Roberta, vuoi dirci qualcosa da dove arrivate e a che tappa siete del vostro tour e come state? Sì, molto volentieri, grazie, siamo innanzitutto felici di essere qui con voi, grazie per l'opportunità che ci date, insomma, di parlare di questo progetto. Il nostro è un gruppo di artiste e artisti della danza e della performance, insieme siamo il progetto Crisol. Come hai detto, siamo qui in quattro, però manca una danzatrice che è stata con noi nella prima tappa del progetto, che è stata a Singapore. Qui invece a Bologna chiudiamo un po' quello che è stato il nostro viaggio in Italia. Siamo stati prima a Cagliari, poi a Verbania, a Firenze, ed eccoci qui a Bologna. Sicuramente il nostro è un esercizio di networking internazionale, ed è un esercizio che nasce da una serie di domande che ci siamo fatte e fatti in generale sulla rappresentazione della performance, sul corpo come soggetto e oggetto di materiali che sono danzati e performativi, e su nuove pratiche sia di creazione legate alla coreografia, alla performance e all'installazione, ma sia del modo in cui interagiamo non soltanto con il pubblico, ma in generale con chi ci guarda. Quindi ci stiamo anche interrogando e stiamo investigando nuove modalità che escano dalla relazione canonica pubblico, quindi spettatore. Certo. Anche alla luce del fatto che in un momento, diciamo così, critico storicamente, politicamente, socialmente, economicamente, ecologicamente, umanamente e così via, cioè in questa instabilità condivisa ci chiediamo quali siano le nuove forme di interazione tra arte dal vivo e persone che vengono, insomma, a stare con noi, a condividere questo momento, e quindi come pubblico, quindi come artiste e come artisti siamo insomma chiamati a questa riflessione, e lo facciamo invitando le persone a essere parte di questo processo, di queste domande che ci stiamo facendo continuando a danzare, ecco. Infatti Roberta, vedo che cioè nella pagina dello spettacolo che c'è sul sito genderbender.it vedo che viene riferito a Crisol, sì. E poi sono curiosa di chiedervi anche cosa significa questo nome bellissimo, che è una prova aperta, no? Quindi sì. Voi non chiamate la performance, l'installazione, il momento, non so come definirlo, come punto di arrivo, ma come appunto una prova aperta che già suggerisce un invito. Momento è un ottimo, insomma, invito, perché richiama l'idea di stare nel qui e nell'ora. Prova aperta, diciamo, in una dimensione diversa. Solitamente nel nostro ambiente, quando si dice prova aperta, si invitano le persone a vedere un work in progress di un lavoro che non è ancora pronto, e invece noi siamo pronti a condividere delle nuove metodologie di stare nello spazio, diciamo, certo. delle nuove strategie per condividere insieme lo spazio performativo e le nostre riflessioni, che sono sicuramente rivolte in particolar modo alla dicotomia male gaze e female gaze. Infatti vedo che proprio questo Crisol parla, sì, e problematizza il concetto di male gaze, sì. E prima di cominciare a capire che cos'è, lancio una canzone che anticipa un po' questo male gaze. Ed eccoci ritornati su Coxa Spaziale a Radio Città Fugico FM 103.1. Ricordo agli ascoltatori che se vogliono mandarci un audio o un messaggino possono scrivere al 333 180 94 94. E prima di ritornare con i nostri ospiti, a proposito dei messaggi che ci scrivono, non posso non lanciare un audio della nostra mitica mascotte, che vi presenterò, vi farò conoscere, che è il nostro Marco Roma. Buongiorno, se potessi contare le stelle vuol dire che conterei anche tutte le volte che mi ami, ma non posso quantificarlo, sai, perché il tuo amore è grande, è illimitato, sai, padre mio che sei nei cieli, io amo solo te. Da Marco Roma, boom boom. E Marco Roma, boom boom, ha anche una risposta che posso mandare in onda in questo momento. Mitico Marco Roma, buon coxo spaziale. E visto che il tablet, questo è la Grecia, visto che il tablet lo alzo soltanto una volta perché poi non ci capisco più niente con i volumi, metterò anche il nostro messaggio del nostro caro Stefano che ci saluta così. Ciao Mia, ti mando un vocale dalla Grecia per salutarti e per farti in bocca al lupo alla regia da sola per la prima volta a Coxo Spaziale su Radio Città Fujiko, ma anche per ricordarti che alle 20:30 devi mettere la pubblicità da questo lunedì. Grazie. Grazie Stefano, grazie mille Stefano, e così ve l'ho presentato i nostri fantastici ospiti che abbiamo qui in diretta. Ricordiamo Jerry, Albert, Roberta e Fabio, che rappresentano il team, io lo posso chiamare team Crisol, ma questo Crisol è un evento, una prova aperta, oppure è una compagnia che potete rappresentare voi messi insieme? Che cos'è? Come lo definireste? Come vi siete conosciuti? Come vi siete trovati? Che cos'è Gender Bender? Che cos'è la vita, insomma, alla fine chiedo, no? Fabio, rispondici tu, che hai questo sorrisone rassicurante. No, allora, Crisol praticamente è un progetto di scambio internazionale tra Italia e Asia, praticamente. In questo caso, perché c'è anche... ci sono altri tipi di Crisol Project, per esempio con l'Africa o con altri paesi. In questo caso appunto siamo uno scambio con l'Asia. Ok. Come praticamente ognuno delle realtà. Quindi Crisol esiste in tantissime versioni. Esatto. Questa è la Crisol Asia. Ok. Vuol dire qualcosa Crisol? Crisol significa crogiolo in italiano. Ok. Ed è un contenitore che viene utilizzato per appunto mettere delle sostanze chimiche all'interno e certo. Portarle ad avere delle reazioni grazie ad alte temperature, no? Ah. Quindi diciamo che questi incontri tra è quello che è successo anche a noi, praticamente è un incontro di varie che ad alta temperatura è nato, e vi siete conosciuti quindi un mese fa più o meno. Ci siamo conosciuti per la prima volta a Singapore. A Singapore. A marzo. Del 2022, sì. Ok. Da allora poi abbiamo continuato a sentirci, diciamo, su Zoom. Certo. Perché ovviamente le distanze sono quelle certo. che sono. E ora il 25 agosto ci siamo rincontrati a Cagliari in Sardegna. Ok, stupendo, meraviglioso. E adesso ha un nome anche la vostra installazione. Avete... Sì. Allora, attivare lo sguardo. Appunto, attivare okay. lo sguardo, ci siamo concentrati su quello. E, diciamo che. Che è appunto quello che stava introducendo Roberta, esatto. che era sul male gaze. Chi è che vuole rispondermi su che cosa. What male gaze means? Maybe we can ask to Jerry or Albert. So male gaze to answer in English. Well, but Roberta will translate. Oh, sure. You have this duty. Oh, yeah. Like very responsible duty. For me, male gaze, I started during my studies actually in university. Male gaze started as a movie theory where how the director, the frames the picture using the male gaze or using the eyes of the male seeing different pictures to distinguish this form of man seeing things, for example. Quindi Albert appunto diceva che insomma la sua conoscenza del male gaze è effettivamente iniziata durante i suoi studi e in particolare con riferimento al cinema, quindi a teorie legate più al cinema, e essenzialmente si può intendere il male gaze come quello sguardo maschile che viene applicato in maniera proiettiva, diciamo, alla ripresa, certo. quindi l'uomo che guarda e che è come questo si traduce registra. Appunto registicamente nel cinema. Certo, like a frame. Yeah, exactly. So recently come un frame. So we've also been investigating on female gaze as well by the film theory is Laura Mulvey and then further expanded by Jill Soloway. Okay. So So yeah, so we're all very much interested on the other side of male gaze, which is the female gaze, which is different. Right. Which is like not diminishing women and not turning women into passive items to possess or use as props. So that kind of gaze. But I think through what we've been like working on, we've been also like expanding female to include other genders as well. Mm-hmm. Ok, quindi quello che quello appunto che si diceva è che queste, abbiamo riflettuto su queste teorie e che sicuramente ci interessa maggiormente soffermarci sul female gaze, quindi su questo sguardo diciamo femminile, non intendendolo solo come femminile ma come possibilità di queer rispetto diciamo al visivo, alle arti performative. E si diceva appunto che quello che ci interessa è questa transizione diciamo da uno sguardo maschile oggettificante rispetto al femminile, che appunto è un oggetto guardato che insomma sposta delle cose e viene agito, a diciamo la possibilità di aprire lo spazio non solo alla donna ma a qualsiasi altra, certo, possibilità del genere, dell'identità, sotto un altro sguardo. Certo. Metto una domanda così, I drop her like a questions. Can a gaze of a male can be feminine? Potrebbe uno sguardo di un uomo essere femminile? O come può? How? I mean, how we can really like be outside of ourselves and identify some sexuality which is not really coming from the inside. Come facciamo a una sorta di uscire dal nostro corpo e identificarci in uno sguardo? Cioè, come facciamo? Io da donna, come faccio a sapere qual è lo sguardo maschile? Me as a woman, how do I know what's the male gaze is? I think you could easily see it through. I think the most easy way to identify is through like watching films, like how the females in films are being portrayed, or how you see the camera angles, like what they're focusing on, like in the male gaze, you focus like on the body of the woman instead of the whole like the story, yeah, of the woman. And also, there is a difference sometimes between how a male director films a woman versus a female director films a woman. Most of the time, when it's a female director, there is much more care taken to consider what goes beyond the body, like who makes this woman, the whole story behind, is that the woman is not treated as a subject, and yeah. Quindi sì, stavamo dicendo che questo sguardo maschile è maggiormente riconoscibile appunto nella filmografia, ed in particolare nel modo in cui la donna, il corpo femminile viene ripreso, che è già di per sé un'oggettificazione che non lascia spazio a qualcosa che diciamo vada oltre al corpo, oltre appunto all'esperienza del corpo oggetto guardato da un uomo. Magari qui mi posso inserire anche io. I miei colleghi, insomma, che sono qui con me, si identificano come uomini, diciamo, ma sono abbastanza, come dire, attenti rispetto al fatto di essere appunto e di riconoscersi come degli uomini, e superando la dicotomia maschile e femminile, perché in effetti non stiamo parlando diciamo in maniera antagonistica certo, di queste due categorie, stiamo semplicemente parlando di uno spazio intersezionale in cui si guarda alla complessità delle cose e si cerca di non banalizzarla, ed è secondo me un discorso importante, specie nel nostro ambito, in cui il problema della rappresentazione ed in particolare del corpo è un problema oltre che estetico e performativo anche politico, diciamo. Assolutamente sì, qua si aprono dei discorsi veramente molto molto interessanti, anche perché forse si può e pensare che lo sguardo maschile o lo sguardo femminile parli appunto di sessualizzazione di un soggetto, no? E quindi esattamente come può essere violenta la sessualizzazione nei confronti di una donna, lo potrebbe essere anche nei confronti di un uomo, ma abbiamo storicamente meno episodi di questo genere. O nei confronti di una persona trans, o di una persona non binaria, o di una, persona che si riconosce in un qualsiasi tipo di minoranza in generale. Certo, ecco. Certo. O comunque riuscire a parlare di essere umano forse senza per forza parlare di sessualità, cioè di sessualità nel senso proprio di come se fosse questo il nostro fine, no? Sia dello sguardo sia della nostra esistenza, cioè come donne siamo molto di più. Anche, no? Esatto. Esatto, assolutamente sì. E con queste suggestioni che lasciano veramente pensare moltissimo, metto un pezzo e poi parte la pubblicità delle 20:30. popolare super asperafestival.org. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Eccoci ritornati a Coxo Spaziale, se non l'avevamo capito, e su Radio Città Fogico con quattro carissimi, carichissimi e super positivi, hanno un'energia che veramente la sento illuminare lo studio. Offline abbiamo parlato un po' di quello che è l'allestimento del loro progetto Crisol e attivare lo sguardo all'interno del Festival Gender Bender adesso in programma a Bologna in questi giorni. Quindi finalmente possiamo scoprire e dire agli ascoltatori quando sarà il vostro attivare lo sguardo. A che ora? Alle 19, giusto? Chi lo vuole dire? Alle 19 al Dams Lab a Bologna. Fantastico, poi su coxospaziale.blogspot.com metteremo tutti i riferimenti e anche l'indirizzo completo. Appunto ci sarà, scusami, un'apertura pubblica e dopo un talk dove appunto magari spiegheremo meglio, no, di cosa si tratta e cercheremo di avere anche dei feedback da chi ci guarda, perché certo, per noi è molto importante. Certo, perché appunto come anche si diceva prima fuori onda, il tentativo di proporre una non binarietà dello sguardo maschile o femminile, la riflessione anche cinematografica, no? sul tema dello sguardo viene in qualche modo rotta o sospesa da uno sguardo che non può essere cinematografico proprio perché convoglia a 360 gradi nella stanza, e una non binarietà non soltanto appunto sessuale o fisica, ma anche di pubblico e spettacolo, no? Spettatori e attori. Quindi voi che vi ho un po' curiosamente chiesto da dove venite soprattutto dalla danza, chi contemporanea, chi classica, chi è arrivato alla danza come Albert dopo aver studiato media, e vi siete ritrovati a far parte di questo bellissimo, bellissimo gruppo. Se qualcuno vuole leggere o guardare qualcosa di più su di voi, avete un sito di questo progetto oppure fate riferimento ai vostri canali social, che dopo vi chiedo per taggarvi su tutte le cose? Sicuramente ci sono i nostri social, ma poi secondo me potete andare sul sito di Fabrica Europa, anche su quello di Gender Bender troverete proprio una sessione dedicata al progetto. Al progetto Crisol, sì. Perfetto. Vogliamo dire qualche parola su Gender Bender? Voi siete andati a vedere qualche spettacolo nei giorni scorsi? Noi siamo arrivate oggi, quindi insomma ancora certo. non abbiamo avuto modo, però Gender Bender è per noi credo un festival a cui siamo molto affezionate, molto affezionati, perché è un festival insomma che conserva una vocazione indipendente, un'apertura molto molto preziosa, una programmazione anche voglio dire interessante per quanto riguarda la performance, la danza ed anche il cinema. Non è il primo anno che veniamo qui come artiste e ci teniamo moltissimo ecco a questo festival che lascia sempre un grande grado di libertà anche di fiducia a chi lo attraversa con il proprio lavoro, quindi è molto importante per noi essere qui. Certo, avete partecipato un'altra volta sempre voi oppure alcuni Crisol, separatamente? Crisol diciamo è la prima volta, però noi, io e Fabio insomma come danzatori, danzatrici e come coreografe e coreografi avevamo già partecipato alle edizioni precedenti, per questo insomma siamo certo, come dire. Certo, per gli ascoltatori ricordo che Gender Bender è a Bologna dal 9 al 22 settembre ed è un programma di 60 appuntamenti con artisti e opere in arrivo da ben 25 paesi, quindi anche questo diciamo questa apertura a 25 paesi post-Covid è sicuramente una bellissima iniziativa. È l'edizione numero 20 e è un festival internazionale che diciamo, intercetta e presenta al pubblico le evoluzioni con cui mutano gli immaginari al genere nelle arti contemporanee, no? Legati al genere. Quindi voi, per esempio, portate lo sguardo del male gaze, del female gaze, creato e diretto da Daniele Del Pozzo, in co-direzione con Mauro Meneghelli. Gender Bender è prodotto da Il Cassero LGBT. Non riesco mai a pronunciarlo bene, però esatto, l'ho pronunciato giusto. Più Center di Bologna, con il sistema del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura e dei sponsor provati. Sono 14 le giornate di programmazione, 60 gli appuntamenti, 9 prime nazionali, 20 spettacoli di danza, 18 titoli cinematografici, 5 parti. Tra cui il vostro, no, il vostro non è ancora talk, perdiamo, però perdiamo le parti purtroppo, però insomma, ecco, siamo aperti al party in generale. 4 progetti in rete e molto altro ancora. In arrivo le opere sono degli artisti dall'Australia, dal Belgio, dal Brasile, dal Canada, dalla Colombia, dalla Francia, dalla Germania, dal Giappone, dalla Gran Bretagna, dall'Israele, dall'Italia, Macao, Madagascar, Malesia, Paesi Bassi, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Svezia, Taiwan, Ucraina, Ungheria, USA e Venezuela. Caspita, anche Ucraina. Wow. Bene, che figata. Direi di bravi Mauro e Daniele. Sì, bravissimi, li salutiamo, li ringraziamo, sì, anche perfetto, di averci portato voi qui a raccontarci la vostra esperienza, perché è stato grazie all'ufficio stampa Pepita, che saluto Anna Maria se ci ascolterà. Ciao Anna Maria. Che siete qua, insomma, e abbiamo avuto l'opportunità di conoscervi. Metto un altro pezzo, sempre legato a dedicato a questa puntata, e ci sentiamo dopo I Am a Woman. Occhio che vi ho già aperto i microfoni, state attenti che ogni tanto qua apro i microfoni, apriamo i microfoni di nascosto per cominciare a sentire e catturare delle fuori onda interessanti. Quindi ricordo che siamo su Radio Città Fujiko alla 416, spero, puntata di Coxo Spaziale e con i nostri ospiti di Crisol, Roberta, Fabio, Jerry and Albert. E salutiamo anche i nostri ascoltatori di Radio Peng, sperando che questo contenuto possa anche essere carino per gli English speaker. E passiamo la parola ad Albert o Jerry per if you want to say something to our listener from Radio Peng, so you can really be totally free to speak in English and say what you want about how maybe it's your first time in Gender Bender, right? Yes. Totally. It's the first time also for in a festival that you are making as performer and choreographer. Not the first time, but definitely the first very open, queer friendly festival for me. How do you feel in this moment? Oh, so happy. Wow. I feel the passion from everybody. Wow, that's so nice. I can really say that you are a super happy and energetic group and it's amazing. I mean, we really want to come to see you after tomorrow. Yes, please come on Dem's Lab at 7 p.m. on the which day? Wednesday. 14. Yes. Wow. Be ready to be activated on your gaze and queering the space. Wow. Cool. Super cool. We are ready. We burn ready. We can't wait to see it. E anche le installations. Maybe you studied media, so you also were like into videos. Yes, maybe. Yes. Because we know Roberta will have like a hand camera. Yes. Yes. And you got some videos and there will be videos installed, right? Yes, yes. So I will be With male gaze or female gaze? It'll be on the general gaze for sure. It's a little documentary that I did on my way here to Europe, because as a Southeast Asian, it's very, very difficult to enter Europe with a Filipino passport. So I'm documenting this whole process of entering Europe from my gaze and sharing it to others. What's your gaze saying to you in this moment? It's like very difficult, but Italian food are the best. Okay. C'è sempre una consolazione. We have always a consolation, right? Yes, for sure. Nice. Do you want to say something, Jerry? No, not really. Just that all of us love to sing, so maybe Roberta, Fabio, and Albert and me could sing. What? Yeah, you can sing. Did I understand? Yes. Yeah, of course. C'è qualcuno che vorrebbe cantare adesso, ma che figata. Really? Okay, go, Roberta. You me? Start first. Yeah, we'll just back you up, right? What do you want to say? What are you going to sing? No. Just go. Yeah, there will be some singing too in our show, so please do come see our show on Wednesday. Yeah. Also from Virginia. You are in time to buy the ticket and come here. Hello, everybody. Ok, allora ascoltiamo, volete che vi metta un pezzo musicale, vi preparate la musica e quando finisce la canzone partite voi con la vostra? Potrebbe starci. E intanto metto questo pezzo qua. What up, D? You coming to what, man? Nah, I got a lot on my mind, man. I'm gonna let y'all go ahead, man. All right. Come on. All right. All right. Let's do it. Me, I have no body. one here goes out to all my players out there, man. You know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. No, no, together. Oh, whoa, whoa. One, two, three, four. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. And there you go, Roberta, giggling at me. No, you all have to hear Roberta sing. Okay, go. Dai, questa è per mia. Che bella sei, sembri più giovane, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. We got other voices here. No, I'm scared you will break everyone's. No, no, go, Albert. I will back you up. Yeah, please. Albert, I will back you up. I will back you up. It's okay. Come to see dance. Okay, maybe Albert. Yeah, start. Let's go. Let's go. Let's go. I'll sing a Chinese song, maybe. Yes. 工作你福壽與天齊，慶賀你心想快樂。 年年都有今日，岁岁都有今朝，恭喜你，恭喜你！ Wow. Okay, that was a Cantonese song. That is what people do, what people sing on birthdays in Hong Kong. Nice. Wow. Yeah. So nice. Fabio, you want to say something? No. Okay. Really, congratulazioni, avete tutti quanti una voce stupenda e anche un'energia che secondo me adesso poi fuori farete una piccola performance per sì, andiamo a bere un prosecco. Esatto. ci sta. C'è qualcosa che volete dire prima? Sono gli ultimi 7 minuti, qualcuno che volete salutare, qualcosa che volete dire? Io ringrazio Roberta per avermi dedicato una canzone così bella. Per ringraziare te, insomma, ringraziamo te innanzitutto, perché insomma siamo stati molto bene. E poi vabbè, cogliamo l'occasione per ringraziare anche appunto Gender Bender. Io ringrazio i miei colleghi. Thank you. Thank you for having us on Radio Fujiko. Wow. After I will record you, so we will use a jingle inside Coxo Spaziale. Oh my God. Radio Fujiko. and can you say also sing Coxo Spaziale? Coxo Spaziale. Wow. Amazing. I love it. Stefano will be so jealous if he's not here. Like, wow, the best. Yeah, ok. E programmi futuri, quindi voi quando è che volate da Bologna? Riuscite a stare fino al 22 settembre, fino alla fine di Gender Bender? Purtroppo no, abbiamo ognuno di noi a altri lavori. Sì. Cioè sempre legato alla danza, sì, all'arte, però certo, altri gruppi da raggiungere, altri spettacoli. Sì. Siamo nomadi, insomma. Certo, ci sta. Allora vi dedico io l'ultima canzone, se non volete raccontarci altro, vi dedico l'ultima canzone che si intitola Team, proprio per insomma dedicare a voi e augurare a tutti voi, anche January che non è potuto venire e anche Daniel Koch che comunque vi ha dato un suo mentoring. Ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze di Gender Bender e invitiamo tutti gli ascoltatori di veramente uscire da questo male gaze, no? E sì, entrare a universal gaze che sia così un sintomo di freedom per tutti, davvero. E questo è tutto. Io ero Stefano W. Pasquini e anche Mia da Schio su Piei. E questo era Coxo Spaziale. Ciao, al prossimo lunedì. Turn me up, break the knob, right? I get dressed like it's prom night. I feed on lemons in a limelight. They say I'm full, lost my appetite. Hell no. Keep on pushing like a dilla. Hell no. Keep on shooting Reggie Miller. Hell no. Gon' give them all the finger. You gotta set the score right, call it Hans Zimmer. My time wherever I go. I took a chance like I'm from Chicago. 100 plus in that Mercy El Lago. About to go, hey, hey, turn it to the Congo. The dope sets a combo. Running through your block, no fumble. About to kill them all, where the show go? See, I gotta go for mine. Ben Jajamin, that money on my mind. Jamaican club, I'm staying on the grind. Dirty wine, don't step on this landmine. Ben, I keep on the lay. You tryna take flight, do what I say. 100 plus folks on the highway. Watch a new car dash, call me Kylie. Someone like that, baby, let's go away. Watch me while I do my thing. we in it. Ain't walking with some dead shit. Dead shit. 100,000 on a dead shit. Dead shit. All the ladies shaking fast, yeah. Fast, yeah. Now Vogue on it is, yeah. Yeah, we in here. Mm-hmm.